Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ancora no, ce n'è molta di più. Questo è un governo metà femmine, metà maschi, potremmo dire Marte insieme a Venere, va molto bene, tra l'altro siamo donne di peso che hanno posizioni di grande rilievo, ma se togliamo questo livello diciamo apicale in cui c'è stato un grandissimo intuito e anche investimento da parte del Presidente, a scendere non c'è molto spazio. Questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è la ministra Lorenzin che interviene rispetto a un argomento, a una domanda che è stata fatta sulla parità di genere nella politica, e lei dice sì, per quanto riguarda il governo avete sentito la battuta, Venere, Marte eccetera eccetera, però poi appena si scende dopo i ministri praticamente insomma la situazione non è molto cambiata rispetto agli anni precedenti. Siamo alla vigilia dell'8 marzo e voi direte i soliti quelli che dicono cosa serve eccetera eccetera, è un post-it in più, diciamo la verità, per 364 giorni è la festa degli uomini e per una volta si può anche dire un giorno all'anno che sia la festa delle donne. Fra l'altro, rispetto magari a battute o cose di questo tipo, c'è una denuncia di Action Aid che dice che ogni ora nel mondo 5 donne sono uccise dal partner o da un familiare. Quindi contate che a fine di Effetto Notte almeno 5 donne nel mondo, una vittima ogni 12 minuti, quindi potete fare il conto anche più brevemente, ogni 12 minuti una donna viene uccisa nel mondo dal partner oppure da uno della famiglia. Ma stasera parleremo anche di molte altre cose, magari lo dedichiamo più domani, questi argomenti li rimandiamo a domani. Vi dicevo, ci sono delle novità per quanto riguarda la politica, perché parleremo di primarie questa sera, ma è notizia di poco fa in realtà che alle primarie di Napoli, dove avrebbe vinto Valeria Valente nelle primarie del centrosinistra, battendo il suo ex maestro Bassolino, pare che secondo questo sito Fanpage, che avrebbe filmato dei consiglieri municipali, consiglieri comunali fuori dai seggi dei votanti, visti dar del denaro a chi votava, insomma delle monete, non delle cose eccezionali, però comunque insomma gli hanno indicato chi votare, dove mettere la croce insomma sul nome della candidata Valeria Valente. Adesso si verificherà il tutto, sembrava cosa fatta ormai la vittoria di Valeria Valente a Napoli, e invece forse probabilmente le cose si rimetteranno in gioco, insomma quantomeno vanno chiarite. Infatti fra i vari argomenti che avevo sottoposto questa sera, uno riguardava il delitto efferato di Roma durante questo festino, questo ragazzo poveretto seviziato, torturato e poi ucciso, e vi chiedevo sulla pagina Facebook, sapete che sono i vostri due canali per interagire, pagina Facebook di Effetto Notte, i messaggi al 349-238-6666, se secondo voi anche i film possono incoraggiare le menti meno equilibrate a compiere simili delitti così violenti, così efferati. Questa è una possibile domanda di questa sera. Poi alla luce anche di quanto successo per le primarie a Napoli, vi chiedo, e c'è anche la critica della minoranza PD che ha detto c'è stata poca affluenza a Roma, meno 50% rispetto all'elezione di Marino, secondo voi è come dice la minoranza PD che c'è un disagio negli elettori, ed è questo disagio nei confronti della politica in generale o nei confronti del PD? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, altri argomenti, ma intanto vi riassumo gli argomenti più importanti del giorno. Vertice europeo, Ankara rilancia, vuole altri 3 miliardi per fermare i migranti, asse tra Roma e Berlino, e Renzi chiede garanzie sulla libertà di stampa in Turchia. Eurogruppo, attesa per la lettera europea all'Italia, Moscovici dice il clima è cambiato, ma poi arriva la bacchettata sul deficit, resta motivo di preoccupazione. Libia, le salme di due tecnici uccisi rientreranno forse domani, e gli Stati Uniti precisano spetta solo all'Italia decidere il suo impegno in Libia. Terrorismo in Gran Bretagna, la polizia teme attacchi enormi e spettacolari da parte dell'ISIS. Primarie del PD, a Napoli soldi per votare, questa è l'accusa, e la minoranza del partito critica sull'affluenza, denota il disagio degli elettori. Efferato omicidio a Roma, volevamo vedere che effetto fa uccidere, questo è il movente nella confessione del killer del festino romano. Informatica, addio a Ray Tomlinson, geniale pioniere dell'era internet, intuì l'importanza della posta elettronica e inventò la chiocciola. Partiamo quindi dal vertice europeo sui migranti, dove un ruolo centrale ce l'ha senza dubbio la Turchia, alla quale i 28 paesi europei chiedono di frenare i flussi migratori, ma Ankara alza la posta e chiede altri 3 miliardi oltre a quelli già concordati con l'Europa, e aggiunge che si deve anche seriamente parlare dell'ingresso della Turchia in Europa. In questo vertice si è assistito a un inedito asse tra Italia e Germania, ne parleremo tra poco qui a Effetto Notte. Intanto, per quanto riguarda la Libia, si è in attesa del rientro delle salme dei due ostaggi italiani uccisi. Parlano intanto i due tecnici scampati al sequestro e alla morte, e resta sempre aperto il fronte di un possibile intervento dell'Italia in Libia. A questo proposito, in una nota l'ambasciata americana a Roma scrive: spetta all'Italia decidere e definire i dettagli del suo impegno in Libia, ma la tempistica è una decisione ancora non presa, così fanno sapere gli Stati Uniti. Abbiamo parlato di tutte le nostre cose, perché era un modo di tenerci di cosa fare quando tornavamo, perché ci credevamo di tornare, specialmente ultimamente Salvatore. Così uno dei quattro tecnici italiani rapiti in Libia, Filippo Calcagno, ricorda i giorni di prigionia e, come abbiamo sentito, Salvatore Fail, rimasto ucciso insieme a Fausto Piano. Le loro salme, ha fatto sapere nel pomeriggio il ministro Gentiloni, rientreranno in Italia, se possibile, entro domani. I due sopravvissuti invece sono riusciti a tornare nelle loro case ieri sera: Filippo Calcagno a Piazza Armerina in Sicilia, Gino Poli Riccardo Monterosso in Liguria, dopo un sequestro durato quasi 8 mesi, tempo in cui i quattro nostri connazionali sono rimasti sempre insieme, salvo la separazione all'ultimo. Sono entrati, racconta Calcagno, ci hanno dato dei vestiti, hanno detto è finita, ma poi hanno preso Salvatore Fausto e a noi ci hanno lasciati là dentro, in casa. Lì Fail e Calcagno, come racconta quest'ultimo, sono rimasti 2 giorni senza cibo né acqua, poi hanno deciso di forzare la porta e uscire. Siamo andati sulla strada e fortunatamente il buon Dio ci ha messo sulla strada giusta. Abbiamo trovato i poliziotti e poi da lì è stato tutto un crescendo. È stato atroce, abbiamo sofferto la fame, la sete, i pugni e i colpi di fucile, ha aggiunto Calcagno. Imploravamo i nostri sequestratori, tra cui c'erano anche donne con un bambino, di non venderci all'ISIS. Niente però sui particolari del sequestro nel luglio scorso. Su quello, ha detto Calcagno, è al lavoro la magistratura. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di terrorismo, perché in Gran Bretagna la polizia teme degli attacchi da parte dell'ISIS. L'ISIS, dice la polizia, ha l'ambizione di tentare attacchi enormi e spettacolari in Gran Bretagna come in altri paesi, e le forze di polizia devono elevare il livello di attenzione. Parola questa di Mark Rowley, responsabile dell'antiterrorismo in seno a Scotland Yard, secondo il quale la strage di Parigi è un esempio della volontà dei seguaci del califfato di compiere un salto di qualità delle loro potenziali capacità di minaccia. Siamo all'economia. L'agenzia di rating Fitch ha tagliato la stima di crescita per l'Italia, più 1% per il 2016 e a più 1,3% per il prossimo anno, per motivi principalmente legati al peggioramento delle condizioni economiche esterne. Intanto i conti italiani restano al centro del dibattito europeo. Clima nuovo e migliore, ma ora occorre guardare alla sostanza. Il messaggio che giunge dall'Eurogruppo in una settimana complicata per l'Italia sul fronte dei conti pubblici viene scandito sia dal ministro dell'economia Padoan che dal commissario europeo Moscovici. L'Europa si appresta a inviare, come noto, una lettera a Roma nella quale esprimerà preoccupazione sul percorso dei nostri conti, in particolare sul deficit strutturale. Roma rischia infatti deviazioni importanti sugli obiettivi, come anche il debito. Padoan ostenta però tranquillità. Noi stiamo aspettando il via libera definitivo sulla flessibilità. Mi sembra che ci sia il riconoscimento che il debito si è stabilizzato e quindi comincerà a scendere, e che ci sono alcuni margini di aggiustamento che andranno sfruttati. Il clima è sicuramente migliorato, era buono anche prima, e ci sono molte cose concrete su cui stiamo lavorando insieme. A parlare di clima nuovo è stato Moscovici, che ha confermato che nelle prossime ore la Commissione si riunirà a Strasburgo per prendere le decisioni sui conti. L'Italia può beneficiare di un certo grado di flessibilità, dice Moscovici, ma ci sono criteri e regole da rispettare. La visita di Jean-Claude Juncker a Roma. La visita di Juncker a Roma ha segnato un nuovo clima, ma la sostanza è un'altra cosa, forse leggermente diversa. Sono comunque fiducioso che troveremo un'intesa, dice Moscovici, lasciando intendere che i fronti aperti sono ancora diversi e le posizioni non sempre coincidenti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono anche dati sull'occupazione. Un anno esatto oggi è passato dall'entrata in vigore del Jobs Act, del contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti. Quali sono i dati? Nel quarto trimestre del 2015 sono stati registrati il 14,9% in meno dei licenziamenti rispetto allo stesso periodo del 2014. Ora impegno comune per la crescita, dice il presidente di Confindustria alla consegna dei premi Leonardo. Arrivano ad un anno esatto dall'entrata in vigore del Jobs Act i dati del Ministero del Lavoro. Licenziamenti allora in calo nel 2015 dell'8,14% rispetto all'anno precedente, valore che sfiora il 15% se si considera solo l'ultimo trimestre. Bene quindi i contratti a tempo indeterminato, con una crescita lo scorso anno del 43,6%. Di occupazione, crescita e lavoro parla intanto il Presidente della Repubblica Mattarella, che fa capire l'Italia ha tutte le risorse per guardare con ottimismo al futuro. Un anno trascorso al Quirinale ha rafforzato la mia convinzione che l'Italia dispone di risorse straordinarie che costituiscono già un ponte prezioso verso il futuro. Il capo dello Stato interviene alla cerimonia al Quirinale di consegna dei premi Leonardo, premi legati al Made in Italy e conferiti a coloro che hanno contribuito alla sua affermazione nel mondo. Presente anche il presidente di Confindustria Squinzi. Questa sfida che connetterà gli anni a venire riguarderà gli atteggiamenti e la mentalità di tutti i soggetti coinvolti, a tutti i livelli, imprenditori, manager, lavoratori. I vincitori del premio Leonardo: Ermenegildo Zegna, Ahmad Purfallà, Davide Campari, Vittorio Olivi, Alberto Vacchi, Giovanni Rana, Silvano Pedrollo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla politica con le primarie del PD. All'indomani delle primarie del PD, in cui vincono i candidati renziani, la minoranza del partito passa all'attacco. Le critiche sono per la bassa affluenza a Roma, ma anche per il doppio ruolo esercitato da Matteo Renzi, di premier e segretario. Roberto Speranza accusa poi il presidente del partito, Matteo Orfini, di aver offeso gli elettori. Oggi, per esempio, voglio dirlo, ho letto una intervista del presidente del partito che sulla vicenda Roma dice: no, da 100.000 si passa a 50.000 perché non sono andati i capi bastone e non sono andati i Rom. Io penso che una frase di quel tipo sia offensiva rispetto a migliaia di cittadini romani che appartengono al campo della sinistra e che credo ci abbiano voluto lanciare un messaggio, che chiedono un PD diverso. Intanto il neocandidato sindaco Roberto Giachetti si reca sulla tomba di Luigi Petroselli, ex sindaco PC negli anni 80, molto popolare nella capitale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come vi dicevo, in serata, poco fa in realtà, è arrivato, non so se definirlo al momento un macigno sulle primarie di Napoli, bisogna ancora vedere, insomma, perché consiglieri municipali e consiglieri comunali sono stati visti fornire ai votanti del denaro necessario per partecipare alle primarie del PD di Napoli, sui 2 euro, dopo averli istruiti a mettere la croce sul nome della candidata Valeria Valente. Poi torneremo a parlarne di questo. Il referendum del 17 aprile, adesso parte la campagna informativa contro idrocarburi, contro le trivellazioni. I comitati Notriv, insieme alle regioni, in una conferenza stampa che si è tenuta a Montecitorio, hanno presentato il simbolo per votare sì al quesito riguardante le perforazioni entro le 12 miglia dal mare. Sentiamo allora Enzo Di Salvatore, docente di diritto costituzionale, tra i promotori del referendum, al microfono di Edoardo Sirignano. Allora, dovesse conseguirsi la maggioranza dei sì, dal 18 aprile in poi non si perderà neppure un posto di lavoro. Questo problema si porrà progressivamente tra 10-20 anni, quando le concessioni andranno a scadenza naturale. Ma se tra 20 anni dovessimo stare ancora a ragionare di petrolio, vuol dire che sarà stato un fallimento per la politica energetica di questo paese. La cronaca con l'omicidio del 23enne a Roma. Il PM contesta aggravanti come crudeltà e sevizie. Omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà. Sono queste le motivazioni con le quali la procura ha chiesto la convalida dell'arresto per Manuel Foffo e Marco Prato, i due trentenni che venerdì scorso hanno seviziato e ucciso Luca Varani in un appartamento della periferia di Roma, al culmine di un festino a base di alcol e droga, e solo per vedere, come ha confessato lo stesso Foffo, che effetto fa uccidere qualcuno. Dal suo racconto agli inquirenti è infatti emerso come i due si sarebbero accaniti sul corpo del 23enne, torturandolo in modo che non morisse subito, e che solo dopo il tentativo di ripulire la scena del delitto, Manuel Foffo, preso dal rimorso, sarebbe crollato, chiedendo aiuto al padre, che ha subito avvertito i carabinieri. Mentre l'amico e complice, rifugiatosi in un albergo, tentava il suicidio ingerendo barbiturici. Ora entrambi si trovano nel carcere di Regina Coeli, in attesa della convalida del giudice per le indagini preliminari. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sono solo gli stupefacenti e l'alcol a spingere a certi delitti efferati, o bisogna avere proprio una predisposizione alla crudeltà? Poi ne parleremo di questo caso e di questo anche domanda con il presidente dei psichiatri italiani. Sempre per la cronaca nera, svolta nella vicenda della coppia uccisa a Pordenone, Giosuè Ruotolo, il militare campano accusato del duplice omicidio dei fidanzati di Pordenone, è stato arrestato oggi. Lo si apprende da fonti investigative dell'arma dei carabinieri. E visto che siamo alla vigilia della festa della donna, parliamo di violenze sulle donne. Scopre che la compagna è iscritta a Facebook e, una volta rientrato a casa dal lavoro, la insulta, la colpisce ripetutamente con calci e pugni fino a farla svenire. A quel punto la soccorre, ma si rifiuta di chiamare il 118. Protagonista della vicenda è un uomo di 40 anni, residente a Udine. La sua compagna di 30 anni si era iscritta al social network a sua insaputa. A trovare la donna ferita e con ancora sul corpo segni delle botte è stata, in seguito a una segnalazione, la squadra mobile mobile e la donna, dimessa con una prognosi di 30 giorni, non ha voluto sporgere denuncia, è tornata a casa dal suo compagno. L'uomo è stato comunque denunciato d'ufficio per lesioni aggravate. Vedete, molte denunciano e poi insomma succede quello che succede, ma molte anche purtroppo non denunciano. Per chiudere, una notizia di informatica, è un lutto in realtà nel mondo dell'informatica. Addio a Ray Tomlinson, geniale pioniere dell'era internet, inventò la chiocciola, fu il primo a intuire le potenzialità dei messaggi elettronici già nel 1971. Programmatore informatico americano, era stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti, ma i suoi collaboratori lo ricordano come un uomo umile e modesto che, pensate, non utilizzava nemmeno tanto spesso le email, ha condannato noi praticamente a usarle. Qual è la notizia extra? E riguarda i giovani traditi in Occidente. Secondo un'ampia inchiesta realizzata dal giornale Guardian, le generazioni dei cosiddetti millennials, nati cioè tra gli anni 80 e 90 in Europa e negli Stati Uniti, si ritrova a guadagnare molto meno rispetto ai padri e ai nonni, ai genitori e ai nonni, ad avere meno prospettive di quanto non avessero costoro la loro età. Non solo, spesso, pur lavorando, hanno possibilità economiche inferiori e pensionati. Tra le ragioni di quello che il giornale britannico definisce una tempesta perfetta generazionale senza precedenti nella storia recente, ci sono diversi fattori, dall'indebitamento grazie alle generazioni passate all'occupazione precaria, alle conseguenze negative della globalizzazione. Laddove 30 anni fa i giovani adulti guadagnavano di più rispetto alla media nazionale, oggi in molti paesi devono accontentarsi i giovani di redditi più bassi del 20%. In particolare sta accadendo dove? Negli Stati Uniti e in Italia, dove i millennials hanno visto aumentare in modo minimo il loro reddito reale rispetto invece le migliori condizioni di vita ottenute da altre fasce della popolazione, e sono di fatto fermi ai livelli di 30 anni fa. In Italia gli under 35 sono così diventati in media più poveri dei pensionati under 80. Questi sono dei bei risultati. E intanto sto guardando i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349 238 6666, sia sul delitto di Roma, per chiedervi se effettivamente i film possono ulteriormente condizionare e fomentare, spingere alla violenza, oppure sulla questione PD, le primarie, se è vero che è un disagio negli elettori, come dice la minoranza PD, che ha spinto a una bassissima affluenza a Roma, a Napoli, in particolare a Roma, e poi se è un disagio, una sfiducia nei confronti del PD in particolare o della politica in generale. Per quanto riguarda la omicidio a Roma, stavo guardando le vostre riflessioni. Dice Alberto: il cinema no, ma l'uso di droghe tipo cocaina e alcol sì, possono spingere a questi omicidi. Per questi due disgraziati la pena giusta è la morte per sedia elettrica. In Italia non c'è, Alberto, insomma, per lo più si è contrari. Poi Giorgio dice: non credo tanto quanto si pensa, in realtà queste menti possono farsi stimolare da innumerevoli elementi e possono produrre anche da sole l'azione violenta. Per quanto riguarda poi invece le questioni politiche, ci risentiamo tra pochissimo dopo la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, tra pochissimo cominceremo ad approfondire i vari argomenti, sempre Roberta Giordano con voi, vedo i vostri messaggi, ma tra poco vi devo anche ricordare, se avete acceso la radio in questo momento, anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti. Stavo guardando tra l'altro una notizia appena arrivata a proposito di tennis: Sharapova positiva all'antidoping in Australia, la prima volta penso questa notizia riguardi la Sharapova, questo per gli appassionati sportivi e anche non naturalmente. Ma quali sono le notizie, le altre notizie più importanti? Migranti, Ankara rilancia, vuole altri 3 miliardi, così dice al vertice europeo. E poi primarie del PD, Napoli, fanpage, questo sito, denuncia uno scambio di soldi fuori dai seggi che avrebbero spinto poi gli elettori a votare Valeria Valente. Per quanto riguarda Roma, la minoranza critica, la minoranza del PD, e dice sull'affluenza c'è disagio degli elettori. Cosa ne pensate? Effettivamente c'è questo disagio nei confronti del PD o nei confronti della politica in generale? Scrivete sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349 238 6666. Libia, rientro delle salme forse domani. Intanto gli Stati Uniti dicono l'Italia decida sull'impegno in Libia, gli ostaggi venduti ai rapitori, questa sarebbe un'ipotesi. ipotesi. E poi Unione Europea, l'Italia deve regolare il debito, non l'ha rispettato per ora questa regola, secondo l'Eurogruppo. Poi orrore a Roma, ammazzano un giovane, volevamo uccidere qualcuno per vedere che effetto fa. Erano in giro per cercare una vittima. Questo è il delitto, è avvenuto durante il festino in un appartamento a Roma. Tangenti sui rifiuti, arrestata la sindaca di Maddaloni. E poi 8 marzo dalla ministra Lorenzina Camusso, bisogna rivedere l'età delle pensioni italiane, su questo poi ritorneremo anche domani. E poi addio a Ray Tomlinson, geniale pioniere dell'era internet, intuì l'importanza della posta elettronica e inventò la chiocciola. Adesso concentriamoci sul vertice europeo in corso a Bruxelles, vertice sui migranti. Si tratta di un Consiglio europeo straordinario che comincia oggi e col quale si cerca faticosamente un accordo a tutti i costi con la Turchia, senza la quale è difficile limitare gli afflussi dei migranti verso il vecchio continente, verso l'Europa. Finora gli accordi precedenti, come sapete, ne abbiamo parlato mille volte, sono rimasti piuttosto lettera morta. I 28 paesi dell'Unione Europea procedono più o meno, fra l'altro, in ordine sparso, uno che tira sul muro, l'altro che dice noi accettiamo solo un tetto oltre il quale non andiamo con i migranti, e quindi insomma non si riesce a trovare un accordo comune. La Turchia sta ricevendo, come da accordi per frenare un po' questi flussi di migranti, 3 miliardi di euro dai 28 stati europei, però oggi a questo vertice ha alzato ulteriormente la posta, ha rilanciato: voglio altri 3 miliardi. E in più il primo ministro turco Davutoglu ha anche cercato di inserire nei colloqui il tema dell'ingresso di Ankara nell'Unione Europea. Ne parliamo con la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buonasera Roberta. Quindi vertice difficile che sta procedendo e queste sono le richieste della Turchia. Poi è intervenuto anche Renzi, no? Sì, va molto per lungo il vertice. Diciamo subito che un accordo tra l'Unione Europea e la Turchia è dato per improbabile oggi. Questo lo indicano alcune fonti europee. Dunque sarà difficile concludere un accordo la giornata di oggi. Abbiamo sentito, come hai detto tu, anche Ankara ha giocato a rialzo, ha chiesto 3 miliardi in più, ha chiesto di accelerare il negoziato sull'adesione all'Unione Europea, di semplificare il rilascio dei visti, ma pesa anche sul vertice la stretta sull'informazione. Nel regime di Erdogan, citato espressamente dal Presidente del Parlamento Europeo Schulz come un problema, e poi Renzi ha detto che se non c'è un riferimento alla libertà di stampa l'Italia non firmerà nessuna intesa, e il riferimento è anche a questa irruzione che c'è stata nella sede di Zama, nel quotidiano di opposizione al regime di Erdogan qualche giorno fa, il licenziamento dei giornalisti. E una linea di non compiacenza è stata chiesta anche dall'altro rappresentante UE Mogherini, in quanto per il candidato ha detto che la Turchia deve rispettare gli standard più alti di democrazia. Bisognerà vedere se gli altri paesi, pur di portare a casa un accordo con la Turchia, decideranno meno di chiudere un occhio su questa questione. Poi intanto sempre Renzi ha consegnato a tutti i 27 capi di Stato e di Governo una copia di Fuoco a Mare, che è il documentario di Gianfranco Rosi sui migranti, sul rapporto tra migranti e Lampedusa, vincitore dello Sodara a Berlino, per ricordare cosa significa davvero migrare, ma anche per sensibilizzare sul fatto che una nuova rotta, quella del Mediterraneo, potrebbe tornare a rappresentare una emergenza con la primavera e l'estate, quindi non c'è solo la rotta balcanica. Senti, poi si è creato questo asse, Alessandra, tra, dicevamo, la Germania e l'Italia, quindi tra Renzi e Merkel, che hanno posto delle priorità, a parte appunto su questa cosa della Turchia. Renzi che ha detto vogliamo nell'accordo anche una sorta di clausola sulla libertà di stampa in Turchia, no? E poi ci sono altri punti però sui quali si sono trovati d'accordo. Sì, gli altri punti diciamo intanto che l'obiettivo prioritario del vertice è quello di provare a blindare le frontiere esterne per salvare Schengen e riaprire le frontiere interne. E poi c'è una linea comune tra Germania e Italia per quanto riguarda questa ipotesi che circola di una creazione di un'agenzia gestita da Bruxelles che dovrebbe esaminare le richieste dei rifugiati e decidere sui ricollocamenti, una proposta in realtà avversata dai paesi balcanici, ma sostenuta appunto da Italia e Germania, che sono arrivati al vertice con una linea condivisa messa a punto dai ministri degli interni delle scorse settimane. Si tratterebbe di un meccanismo appunto comune di rimpatrio europeo, e cioè di mandare indietro i migranti economici in cambio però di un ufficio unico di asilo e di un sistema istituzionalizzato di collocamento, che di fatto segnerebbe un superamento del regolamento di Dublino, come da tempo chiede l'Italia, il quale prevede che la domanda l'esamini lo Stato dove il richiedente ha fatto ingresso nell'Unione. Poi ci sono poi altri paesi, come l'Ungheria e l'Austria, che come sempre ribadiscono la linea dura. Il cancelliere austriaco Faymann annuncia che viene e chiuderà tutte le rotte, anche quella balcanica, i trafficanti non devono avere alcuna opportunità, mentre Orban dice no agli insediamenti dalla Turchia. Dunque, come insomma, si diceva, in ordine sparso, insomma, quindi no, continua ad andare avanti l'Europa. Vediamo se da questo vertice si riesce a trovare un accordo un po' più costruttivo e concreto, e soprattutto vedremo quale sarà la posizione della Turchia, che già appunto sta rilanciando, come ci dicevi. Grazie Alessandra Schepisi. Ciao Alessandra. L'Europa al bivio greco, con Radio 24 nel cuore della crisi. Questo è il viaggio che Radio 24 fa da oggi al 12 marzo, accompagnandovi nel paese che più di tutti racconta questa profonda crisi dell'Europa contemporanea, tra l'emergenza immigrazione e anche una profonda crisi economica. Ne parliamo con Valentina Furlanetto, che è appunto in Grecia. Ciao Valentina. Sì, ciao, ciao a tutti, buona serata. In diretta dal campo di immigrati di Domeni, al confine tra Grecia e Macedonia. Vi ricordate, la scorsa settimana ci sono stati questi scontri tra polizia e migranti che avevano sfondato le recinzioni che impedivano loro di proseguire il loro cammino verso l'Europa. E lì, in questo campo profughi, baraccopoli, come la vogliamo chiamare, tuttora ci sono migliaia di migranti che premono alle porte dell'Europa, Valentina, no? Sì, è proprio così, è un campo profughi perché lo è diventato, in realtà come dicevi è una specie di slum, una baraccopoli. All'inizio, a settembre scorso, c'erano 5.000 persone nelle tende dell'UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati, adesso siamo arrivati a 13.000 persone che continuano a crescere perché arrivano al ritmo di 150 all'ora. Arrivano dalle isole greche, arrivano da Atene e confluiscono tutti qui perché qui c'è il confine appunto con la Macedonia, poi si prosegue verso nord, verso la Serbia, per arrivare poi al nord dell'Europa, che è la meta di queste persone, che sono per lo più siriane. Il 72% sono donne e bambini, circa 5.000-6.000 bambini, il 40% sono proprio minori. Questo campo era destinato appunto a ospitare 1.200 persone. Oggi tra l'altro non so se riuscite a sentirlo, ma piove e ha piovuto terribilmente nel pomeriggio, c'è stato un temporale, queste persone si sono rifugiate nelle tende, pensate ai bambini, alle donne nelle tende, della situazione molto difficile. Si fa la fila per prendere il pane, o anche un'ora di fila, chiaramente con la pioggia non sono riusciti a uscire. Quelli che erano che sono sulla zona della ferrovia, perché hanno anche occupato i binari della ferrovia con queste tende, sono in una zona più più sicura, perché ci sono dei sassi, quindi l'acqua drena, mentre tutte le persone sul campo sono in mezzo al fango in questo momento. Valentina, per chiudere, che impressione si ha sulla possibilità che possano in breve passare o che possano rimanere lì a oltranza, che non ci siano grandi speranze? Che sensazione hai? Allora, si teme, le organizzazioni qui, le ONG e l'UNHCR temono che questa possa diventare una situazione permanente. Mi diceva il portavoce dell'UNHCR, Babar Baloch, oggi pomeriggio, che la situazione è disperata e preoccupante. Si teme che diventi un campo profughi stabile, anche se le condizioni di igiene e umane non ci sono. Loro sono molto coscienti di quello che sta avvenendo a Bruxelles. Molti qui hanno studiato, sono studenti, liberi professionisti che arrivano dalla Siria. Sono informati, si tengono informati con gli smartphone, chiedono, mi chiedevano oggi che cosa stava avvenendo a Bruxelles. Sono perplessi su questo ruolo di piantone dell'Europa che forse verrà dato alla Turchia, e comunque aspettano con speranza quello che potrà avvenire, anche se i segnali che arrivano da Bruxelles sono abbastanza ambigui e anche preoccupanti, come sentivamo prima. Grazie Valentina Furlanetto dalla Grecia. Ciao Valentina. Grazie a te, buona serata. E adesso, prima di lasciarci per questa breve ricreazione, i vostri messaggi un po' divisi tra la politica, le primarie del PD e questo efferato omicidio a Roma. Allora, per quanto riguarda la politica, questo ascoltatore è al 349-238-6666, mettete un nome qualunque anche d'arte. Il secondo partito d'Italia, dice, seleziona il sindaco di Roma con 1400 click che nessuno ha potuto verificare e nessun giornalista ha aperto bocca. Il PD fa uscire di casa 50.000 persone, sono polemiche a non finire, povera l'Italia, che giornalisti, dice. Poi Roberto da Roma, da quando i DS sono diventati PD hanno perso il mio voto, perché non ritrovo più una linea chiara e di apertura all'avvenire, ovvero una sinistra moderna e autentica. Ora il PD non è né carne né pesce, dice Roberto. Questo per quanto riguarda la bassa affluenza a Roma in particolare, ma anche a Napoli. Poi a Napoli è successa questa cosa che ancora è da chiarire, su possibili monete date alla gente per votare. Invece per quanto riguarda l'omicidio di Roma e la possibilità che film violenti possano influenzare menti poco equilibrate, scrive Simone, nessuno arriva a tali livelli di annullamento dell'altro, di incapacità di sentire dolore, di avere pena per il dolore di un'altra persona solo perché ha visto un film o 100 film. Enrico scrive, in teoria sì, il cinema e tutta l'arte hanno un immenso potere, possono quindi anche turbare menti fragili e impressionabili. Detto questo, mai occorrerebbe mettere dei limiti all'arte. Psycho di Alfred Hitchcock fu censurato in America, eccetera eccetera. E poi Roberto, no, non credo che sia colpa del cinema, ma piuttosto e sempre di più dei figli di papà, che ormai il loro cinema è alcol e droga, non avendo più valore di vita, buon lavoro, eccetera eccetera. A tra poco. Oh, mi raccomando, il 12 marzo segnatevi sull'agenda questa data, ci dovete seguire in un mondo a 24 zampe. Perché? Perché io, Rosita Celentano e Angelo Vaira ti aspettiamo a Milano per Chiedimi se sono felice live, un altro evento fantastico esclusivo dedicato agli animali e all'importanza della loro presenza in famiglia. In famiglia, perché il focus è la genitorialità di questo incontro. Vi aspettiamo a Milano all'Arena Civica, Palazzina Appiani, sabato 12 marzo, ore 15, ciao! In collaborazione con... Adoc Day by Day, il buono di ogni giorno per cani e gatti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. State mandando i messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666 sul delitto di Roma e di quanto certi film violenti possano meno influenzare certe menti poco equilibrate, e anche sulle primarie del PD. Per esempio, su questo, sul primo argomento, un ascoltatore al 349-238-6666 scrive: la cocaina è definita scientificamente la droga dell'omicidio, le istituzioni ne dovrebbero prendere atto e così i consumatori. Ne parleremo tra pochissimo. Vi ricordo intanto le notizie più importanti. Vertice europeo, Ankara rilancia, vuole altri 3 miliardi per fermare i migranti, asse tra Roma e Berlino, e Renzi chiede garanzia sulle libertà di stampa in Turchia. Eurogruppo attesa per la lettera europea all'Italia, Moscovici dice il clima è cambiato, ma poi arriva la bacchettata sul deficit e resta un motivo di preoccupazione. Libia, le salme di due tecnici uccisi rientreranno forse domani, gli Stati Uniti precisano, spetta solo all'Italia a decidere il suo impegno in Libia. Terrorismo in Gran Bretagna, la polizia teme attacchi enormi e spettacolari da parte dell'ISIS. Primarie PD a Napoli, l'accusa di soldi per votare. La minoranza del PD critica sull'affluenza, denota, dice, il disagio degli elettori. Efferato omicidio a Roma, volevamo vedere che effetto fa uccidere, questo il movente nella confessione del killer del festino romano. Informatica, addio ad Ray Tomlinson, geniale pioniere dell'era internet, intuì l'importanza della posta elettronica e inventò la chiocciola. E concentriamoci allora adesso sulla cronaca, con questo efferato, sconcertante delitto di Roma, l'omicidio del 23enne Luca Varani, nel corso di un festino a base di droga e alcol che andava avanti da almeno un giorno. Hanno confessato i due seviziatori assassini, perché è stato anche purtroppo brutalmente seviziato, Manuel Foffo, che è un figlio di un proprietario di una delle più importanti agenzie di pratiche auto della capitale, con uno squadrone di 8 avvocati, un ristorante a Pietralata, e l'altro è Mark Prato, che invece è un volto piuttosto noto della movida romana e non solo. Che cosa hanno confessato? E questa è la cosa sconcertante. Hanno detto: volevamo uccidere qualcuno solo per vedere che effetto fa. Non è la primissima volta che sentiamo, infatti, di cronaca nera che saltano, insomma, alla ribalta una cosa del genere, però fa sempre un certo effetto. E Hanno detto praticamente nella confessione: eravamo usciti in macchina la sera prima, quindi questa cosa è ancora più grave, avrebbe riferito uno dei due, sperando di incontrare qualcuno, cioè loro cercavano qualcuno per strada così casualmente per vedere che effetto faceva ucciderlo. Poi abbiamo pensato a Varani, il povero Luca Varani, che già conosceva il mio amico, l'altro appunto che è in carcere, Mark Prato, e quindi Luca, si può dire, Luca Varani è stato una vittima predestinata, avevano pensato a lui, avevano pensato che poteva essere la persona ideale, lo avevano invitato all'ultimo a questo festino. E il suo assassino Fofo ha raccontato, proprio senza nascondere nessun particolare, proprio i più truci, comprese le sevizie, le torture, fino poi all'omicidio con martellate e coltellate, e il corpo del povero 23enne viene sottoposto oggi all'autopsia. Nella prima versione Fofo aveva detto: ma con la droga, con l'alcol vedevamo dei mostri, insomma aveva cercato un po' di trovare delle giustificazioni, poi alla fine appunto questa è la confessione. Ne parliamo con il professor Claudio Mencacci, psichiatra, presidente della Società Italiana di Psichiatria. Professore, bentornato. Grazie, buona serata a tutti. Lei sarà abituato nella sua lunga carriera a sentire di tutto, però davvero già un omicidio in genere, no, è un fatto, l'orrore non ha mai fine. È quello che avevamo visto in passato in alcuni film come Strange Days o Arancia Meccanica per i più anziani, ormai è una realtà legata a questi abusi, o meglio a questi poliabusi. Professore, tra l'altro qualcuno che in questo caso appunto era un festino che pare andasse avanti più ancora più che da un giorno, con base di droga, di alcol, secondo lei chiunque sotto effetto di stupefacenti, di alcol, potrebbe essere capace di un omicidio così efferato, dove c'è appunto, come si è detto tante volte, la banalità del male, no? Non è che avevano qualcosa in particolare contro di lui, così, perché volevano vedere che effetto faceva, e siccome uno dei due lo conosceva, all'ultimo lo hanno invitato, e questa è stata la fine che ha fatto. Cioè chiunque sarebbe in grado di fare una cosa del genere, o bisogna già avere un'indole particolare? Beh, sicuramente ci vuole un orientamento, anche perché i comportamenti così violenti e aggressivi sono apposta comportamenti, non sono patologie o vulnerabilità. Qui si tratta di una combinazione esplosiva, che è l'associazione di cocaina ed alcol, che formano questa terza sostanza, che è un vero e proprio esplosivo, che è questo cocaetilene, che è molto più tossico per il cervello delle due sostanze, cocaina o alcol, prese individualmente. E questa terza sostanza che si compone nell'organismo di queste persone toglie qualunque freno inibitorio, e questo lo toglie anche ad altri soggetti che arrivano a tanto, ma c'è un aumento dell'aggressività, della violenza. Ormai il 60% dei fatti di violenza sono legati all'abuso di alcol o d'abuso alcol e cocaina, cioè le persone perdono i loro freni inibitori e diventano soggetti a queste combinazioni, a manifestazioni di aggressività e violenza che noi consideriamo giustamente inaudita, ma è l'effetto di queste sostanze che rendono assolutamente freddi, algidi e distanti dal dolore altrui. Professor Mencacci, però anche questa cosa di voler vedere che effetto fa uccidere qualcuno non è la prima volta, e non per forza sotto effetto di stupefacenti o di alcol, no? Che cosa si muove nella psiche umana per avere un desiderio di questo tipo? Beh, c'è sicuramente un aspetto di crudeltà, c'è un aspetto sotto questo profilo di violenza, ma soprattutto anche di anestesia, dovremmo chiamarla un'anestesia morale, etica, cioè la curiosità di sperimentare le emozioni dell'altro a fine vita fanno parte proprio di una distanza affettiva, emotiva, di qualunque riconoscimento del valore dell'altro. E questo fa parte veramente di quell'aspetto, chiamiamolo criminale, aberrante, che alcuni individui manifestano. Grazie professor Claudio Mencacci. Grazie a voi, buona serata. Grazie a lei. Effetto notte, le notizie in 60 minuti.

E adesso le primarie del centro-sinistra, che sono state in diverse città, però quelle più importanti, dove certo non aveva solo una valenza locale, Roma e Napoli. A Roma ha vinto il renziano deputato PD Roberto Giachetti, anche se c'è stata un'affluenza molto bassa, meno 50% rispetto alle consultazioni che scelsero Marino. La minoranza PD dice perché tra gli elettori c'è un disagio nei confronti del PD in particolare e anche della politica in generale. A Napoli avrebbe vinto Valeria Valente contro il suo ex maestro Bassolino, nonché presidente, ex presidente della regione Campania. Però Annarita D'Ambrogio, che sei a Napoli per noi, Annarita, ci sì, sono accuse, ciao, di brogli? Sono in treno, sto rientrando, spero che la linea tenga. Sì, la notizia è esplosa, possiamo dirlo, nel pomeriggio, proprio ecco, festeggiava questa affluenza alle urne. Esplosa anche la linea, mi sa, oltre alla notizia, accidenti, con Annarita D'Ambrogio, era sul treno del resto, di ritorno, sembrava che tutto andasse bene, poi effettivamente esplosa questa notizia, cerchiamo di vedere se la recuperiamo. E comunque, come vi dicevo, questo sito che si chiama fanpage.it ha ripreso, sono tre minuti di ripresa, il fatto che alcuni consiglieri comunali avrebbero consegnato ai votanti fuori dai seggi per votare alle primarie degli euro, qualcuno dice pochi euro, quelli che ci vogliono per votare un 2 euro, qualcuno dice 10 euro. Annarita, finché regge. Fin dove siete arrivati al racconto? Che esplosa questa notizia, sì, che ho spiegato fanpage.it, quindi la notizia è che venivano dati dei soldi, qualcuno può dire che... Ma allora veniva dato l'euro necessario per votare, che era l'offerta che l'elettore deve fare per votare, quindi in realtà era minima l'offerta. Perché vedo che il mattino parla di 10 euro ai cittadini, il mattino di Napoli. Solo in un caso, il problema è che poi veniva anche indicato il nominativo da votare. Nella maggior parte dei casi era la vincente Valeria Valente, in un solo caso anche Bassolino. Insomma, sicuramente se ne parlerà. Posso dirti però che il segretario provinciale del PD è già intervenuto e ha detto che si tratta di casi isolati. Quindi però probabilmente avrà degli strascichi questa cosa, forse il perdente Bassolino chiederà... Forse sarà necessario il riconteggio dei voti e quindi in questo caso potremmo aspettarci delle sorprese, però ripeto, stasera il partito cercava di sminuire la vicenda e Venanzio Carpentieri, che è il segretario del PD, diceva che si trattava di casi isolati che non inficiano assolutamente il risultato e la trasparenza del voto. Staremo a vedere. Grazie Annarita D'Ambrogio, sul tuo treno buon viaggio, anche se vedo che la vice segretaria del PD Serracchiani dice ancora una volta: il centrosinistra italiano ha preferito lo strumento delle primarie per la scelta dei propri candidati sindaci, abbiamo lavorato per consentire il corretto e democratico svolgimento delle primarie con strumenti nuovi e con tutta l'attenzione necessaria, attenzione che sarà necessaria anche probabilmente nelle prossime ore per capire effettivamente come sia andata a Napoli. Direi che al momento ci possiamo salutare, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi e per i vostri messaggi per aderire senza indugio, ci riaggiorniamo alle 22:00.